Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando finisce una storia è come quando da bambini finiamo la nostra fetta di torta. Ce ne rimaniamo lì imbambolati nella speranza che ce ne sia un altro boccone nascosto chissà dove. Il bello delle storie è proprio questo: hanno il sapore delle torte e ci fanno sentire bambini. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una bottiglia di Franciacorta. Sono le 16 e 5 minuti con un grandissimo anticipo rispetto, forse perché sono le ultime puntate, quindi giusto Tiziano, ci danno più tempo perché sono le ultime, poi tiriamo definitivamente il collo. Buongiorno a tutti, questo è Vendo Tutto. La radio è Radio 24 e io sono Matteo Caccia. Manca però un componente della redazione. Eccola qui, Laura Faggin, che è un po' in ritardo proprio perché oggi siamo in anticipo. Per tutti gli amici, oggi è Laura Jacqueline Kennedy Faggin, visto che si è presentata in radio questa mattina con un paio di occhiali da sole, che sembra una star della televisione o del cinema, non fosse altro che semplicemente c'ha un occhio praticamente completamente chiuso. Sarebbe uno spettacolo orribile se non fosse invece per questa aura da diva che la circonda. Buongiorno a tutti, oggi vendo una bottiglia di Franciacorta, è una bottiglia, credo sia una Magnum, è un litro e mezzo, quindi è una Magnum, giusto? È giusto? No, che ne so io, ragazzi, sono praticamente a stemmio, quindi 800240024 349-238-6666. Potete comprarvela sempre solo attraverso eBay, quindi andate a vedere sul sito che è radio24.it e da lì c'è il link per arrivare a eBay. Però, se fossi in voi, io oggi farei una puntata su questa bottiglia, perché l'ho comprata in un'occasione particolare, poi più tardi vi spiegherò come e quando l'ho comprata. Però questa è la bottiglia perfetta per festeggiare una ricorrenza. Quindi se voi avete qualcosa da festeggiare in questi giorni, 800240024 349-238-6666. Mi chiamate, mi raccontate che cosa avete da festeggiare e poi magari fate pure un'offerta. Qualsiasi cosa, se vi siete appena laureati, ad esempio, vabbè, la cosa più semplice, se vi è nato un figlio, ma anche se avete cambiato lavoro, non lo sopportavate più, avete trovato un posto nuovo, 800240024 349-238-6666. L'idea era di tenere questa bottiglia per un'occasione speciale all'inizio, poi l'occasione speciale non è arrivata. Poi l'idea era quella di tenerla per la fine del programma, venerdì pomeriggio era quella di, l'idea era di stapparla facendo attenzione che non finisse nell'altro occhio della faggina, altrimenti doveva andare in giro col cane guida, altro che con gli occhiali da sole. E invece no, alla fine abbiamo deciso non ce la teniamo per noi. Vendiamo anche questa, però vogliamo sapere che cosa avete da festeggiare e quindi vogliamo capire se ve la meritate questa bottiglia. 800240024 va bene tipo l'onomastico anche, oppure se è il vostro compleanno o se vi state per sposare. Prima Ludovico su Facebook ha scritto: beh sì, c'è da festeggiare il mio matrimonio, che non so quando sia, però mi sembra un'occasione abbastanza forse un po' troppo canonica. Però va bene uguale. Alessandro invece sempre su Facebook mi scriveva: sono brasiliano e quindi spero di avere qualcosa da festeggiare. 80024 0024 349 238 6666. Valgono anche tipo sapete quei corsi per cui alla fine del corso devi fare un esame per prendere un brevetto di qualsiasi tipo, no? Ecco, valgono anche quelli. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Io adesso vi racconto per quale motivo avevo comprato questa bottiglia Magnum da un litro e mezzo. Poi voi invece mi raccontate i vostri. 800240024 349 238 6666. Andate a vedervela, il sito è sempre il solito, radio24.it, oppure il mio profilo Facebook che è Matteo Caccia Vendo Tutto, per sentire la sua storia. Eccoci qui, la Magnum di Franciacorta. Bottiglia Magnum di Brut Franciacorta, litri 1,5, anno 2009, 13% di gradazione alcolica, prodotto DOCG. Ottima per stuzzicare il proprio buon gusto o per festeggiare qualsiasi cosa abbia diritto di essere festeggiata. Valore commerciale 72 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Casa mia ormai è vuota. C'è dentro giusto il necessario per viverci ancora qualche giorno. Se mi guardo intorno però è praticamente deserta. Ieri sera stavo sistemando le ultime cose, separando quelle da spedire agli acquirenti da quelle da restituire ai proprietari. È incredibile come le nostre case siano piene di cose che appartengono ad altre persone.

Dopo un'ora mi ripresi e andammo a mangiare qualcosa con Vito e gli istruttori. Lei era venuta in treno e io mi proposi di riaccompagnarla a casa, che tanto Brescia era di strada. Lei all'inizio non voleva, poi però accettò a patto che pagasse lei benzina e autostrada. Io feci finta di accettare e salimmo in macchina. Ero ancora particolarmente turbato da quello che mi era successo, quindi durante il viaggio mi misi a parlare delle mie paure, delle crepe nelle certezze, tutte quelle cose da seduta psicanalitica quasi. Uscimmo dall'autostrada e iniziammo a salire in mezzo alle colline. Io continuavo a parlare come un cretino e lei mi guardava e non mi ero ancora accorto dei suoi occhi verdi e delle colline piene di viti tutto intorno. Mi ero accorto però che mi era venuta fame. Allora ci fermammo in una cantina dove mangiammo della carne, un dolce e bevemmo vino con le bollicine. Io sono praticamente astemio, quindi mi bastarono due bicchieri per sentirmi più leggero. E non so se erano le colline piene di borghe e di castelli, le bollicine del Franciacorta, il suo sorriso senza paura, ma stavo bene. Forse per la prima volta da quando tutto era iniziato, stavo bene. Ed ero contento di stare con una donna che non fosse Giulia. Pagai il conto prima di andare via in preda a non so quale estasi, comprai questa bottiglia da 1,5 litri. Perché sentivo che quello era un giorno da festeggiare. E quel vino con le bollicine era perfetto per farlo. Salimmo in macchina, guidai piano con i finestrini abbassati tra le curve in mezzo alle viti. Quando arrivammo sotto casa sua, io presi la bottiglia e feci per stapparla, ma Caterina mi fermò e disse che purtroppo quella non era la sera giusta per festeggiare. La giornata era stata magnifica, ma che lei era fidanzata e che non era vero che era senza paura. Mi diede un bacio sulla guancia, fece una battuta sul mio svenimento e scese dalla macchina. Quando arrivai a casa misi via questa bottiglia, deciso a tirarla fuori nel momento giusto, quello in cui ci sarebbe stato qualcosa da festeggiare. Ecco, quel momento non è arrivato e quindi la vendo. Se qualcuno ha qualcosa da festeggiare, non aspetti e se la porti a casa, che questa è la bottiglia giusta per farlo. Il suo valore è di 72 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se voi avete qualcosa da festeggiare e avete voglia di raccontarmelo, 800 24 0024. Sono le 16:19, 800 24 0024, 349 238 6666. Cose da festeggiare, Silvio, nuova attività da iniziare e piccola Sofia in arrivo a ottobre. Che ne dite? Beh, direi che sono due, Silvio, quindi ne vale la pena. Io ho una boccia di Ferrari da 6 litri. Allora, 6 litri, se uno e mezzo è un magno, 6 litri cos'è? Aspetto anche io una grande occasione per tirarle il collo. È dell'86. Wow, Andrea di Livorno. Ciao Matteo, devo festeggiare il nuovo appartamento a Manchester. Verrò a vivere qui per almeno 2 anni. Se sei a Manchester... Ah beh, ci ascoltò evidentemente col computer. Il 4 luglio ho l'esame finale dopo un corso intensivo di make-up artist. Spero di festeggiare con un voto alto. Ciao a tutti, Cristiana. Cos'è il make-up artist? È la roba un po' artistica che fa il trucco. In soldoni, diciamo. Ciao Matteo, mi chiamo Marco da Roma e devo festeggiare la fine del corso di fotografia che si terrà il 3 luglio durante il Gay Pride, l'ultima uscita fotografica. Posso fare un'offerta? 20 euro per qualsiasi cosa, questo è il mio cellulare. Guarda, vai direttamente su eBay. 800 24 0024. Andiamo però a sentire cosa da festeggiare, ad esempio Alida, che è dalla provincia di Viterbo. Pronto Alida? Pronto. Ciao, buongiorno. Devo festeggiare le nozze d'oro. Le nozze d'oro che sono, Alida, 50... Il 2 luglio. No, scusami, le nozze d'oro sono 50 anni. Sì. Mazza, 50 anni. Sì. Ma 50 anni è una vita intera, cioè è la vita di una donna matura. Certo. Quanti anni hai tu, Alida? 71. 71, quindi sei ancora una bambina per festeggiare le nozze d'oro, perché si sei sposata... Mi sono sposata a 21 anni. Alida mi dà la sensazione di avere questo distacco dalle cose che è meraviglioso. Come si chiama tuo marito? Arcangelo. Alida e Arcangelo. Quando è che la festeggiate? Hai detto il 2 di luglio? Sì. Senti, qual è... Cioè, com'è che si fa stare insieme 50 anni? Sopportandosi tanto e volendosi bene. Però quelle menate per cui... noi ci vogliamo bene come 50 anni fa, non è vero, Alida. No, vi vorrete no. Bene in maniera... Non dico di più o di meno, però in maniera diversa. È diverso. È un rispetto... Dimmi un motivo per cui è diverso oggi da 50 anni fa. Perché avete 70 anni innanzitutto. perché ci sono altre gioie, ci sono i figli, ci sono i nipoti, e quindi è una gioia che il mio marito mi ha dato. Mi dici Alida una cosa. Alida, mi dici una cosa bella e una cosa brutta che sono successe in questi 50 anni? Le cose belle sono i figli che ho avuto. Quanti anni hanno? 49 e 48. E la cosa brutta invece non c'è, mi sembra di capire. Sì, c'è stato, però io ho sopportato e sono ancora qui con lui. Grande. Questa è la voce di una donna che, non so, direi una minchiata, quindi non preferisco non dirla, Alida, però ti ringrazio per aver chiamato. Saluta Arcangelo. Senz'altro. Ciao Alida, mi raccomando, ciao. Con calma, con serenità, che con la tua plomb arrivi altri 50 anni. Buona giornata. È vero, dopo le nozze d'oro cosa c'è? Prego? Dopo le nozze d'oro, platino? Le nozze di diamanti. Ma io non è che... ecco, una bottiglia... E in chiesa a ringraziare il Padre Eterno di avermi dato tutta questa forza. Ma i nostri diamanti quanti anni sono? 75? 75. 75, ragazzi. Ci sentiamo tra 25 anni, Alida. Sì. Ciao, buona giornata, grazie. Andiamo da Michele a Bologna. Pronto, Michele? Pronto, Marco? No. Matteo, che bella figura. Grande, grande. Dimmi, Michele. Cominciamo bene. Sì, sì, sì, decisamente. Riproviamo, Michele, riproviamo, dai, da capo, ok? Allora, andiamo a Bologna da Michele. Pronto, Michele? Ciao, Matteo. Bravo, bravo, così mi piacciono, ascoltatori attenti. Tu che cosa devi festeggiare, Michele? Io festeggio il fatto di essere ritornato in sella. In sella a cosa? A una moto o a un cavallo? Ah, assolutamente sì, perché si sta in sella ad altro. A un cavallo, ad esempio, no? Non credo di esserne in grado. E fortunatamente la moto di cavalli mi ha di ben più docili da gestire. Che cosa è successo? Dunque, il 14 giugno dell'anno scorso, mentre stavo tornando verso casa... Ho avuto la sfortunata coincidenza di fare quattro chiacchiere con un'auto. Sì. La moto si è ridotta che dal canotto dello sterzo, quello che ti consente di farla sterzare, non c'è più niente. Io me la sono cavata con quattro costoline rotte, ma non avevo ancora deciso di smettere di tornare in sella. E quindi quando è che ci risali? Io ci sono già risalito durante tutto lo scorso weekend, perché l'ho noleggiata. Sono andato con un paio di amici a vedere... il Gran Premio a Misano Adriatico e ci siamo passati un bel pomeriggio, ci siamo fatti delle bei giri, delle gran risate. Senti, ma tu non hai avuto nemmeno un attimo di paura quando ti sei risalito sulla moto? No. La paura secondo me la bisogna avere sempre quando si sale in moto. Non puoi avere coraggio e voglia di salirci se non ne hai un minimo paura, altrimenti non hai considerazione né del pericolo né delle difficoltà che ci possono essere. Direi che da uno che si è schiantato contro una macchina sono belle parole, Michele. Grazie mille, buona giornata. Altrettanto. Ciao, alla prossima. Andiamo a Brescia da Corrado. Pronto, Corrado? Ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Io sto molto bene, anche perché sono appena rientrato dalle ferie, per cui... Dove sei stato? A Palma di Mallorca. Com'è Palma di Mallorca? Sono arrivato che c'erano 18 gradi alla ora dell'albergo con maglione e giubbino e poi essere compensato da temperature da 29-32 gradi. Ma perché Palma di Mallorca, scusami, e poi andiamo al dunque. Quando io ero piccolo era il posto in cui andavano gli anziani del mio paese. Difatti c'era molta, io ero in particolare a Santa Ponsa. C'era molte famiglie e molta gente di una certa età. Ok, perché tra l'altro poi Palma è la città, giusto? Mallorca è l'isola. Esatto. Ed è abbastanza grossa Palma di Mallorca, è tipo un terzo della Corsica, una roba, non è un'isoletta. Sì, è molto grande, molto grande. Non l'ho girata perché avevo bisogno di una settimana di relax. Che lavoro fai per pigliarti una settimana a giugno? Che lavoro fai? Faccio l'impiegato per un'azienda di trasporto. Oh, finalmente uno non è che va in giro a fare consulenze. Corrado, cosa dobbiamo festeggiare? Io non festeggio io, ma voglio festeggiare il fatto che la mia compagna, dopo 9 anni di lavoro presso un'azienda tiranna, diciamo, ha messo il cuore e la mente sul tavolo e ha deciso di cambiare lavoro. Fatto uno sforzo veramente enorme, anche perché non è facile poi cambiare abitudini, cambiare colleghi. Dopo quanti anni, Corrado? Dopo 9 anni. E ha già cominciato? No, darà le dimissioni proprio domani sera. Ah, ok, allora in bocca al lupo e pigliatevi questa bottiglia che è il modo ideale per festeggiare. Ciao Corrado. Ti ringrazio Matteo, in bocca al lupo. Ciao Crepi, anche grazie a te. Andiamo a Bergamo da Mauro. Pronto Mauro? Matteo, buongiorno. Buongiorno, però devi spegnere la radio e parlare con me dal cellulare. Aspetta che tolgo l'auricolare. Ah, ecco, perfetto. Quindi stai anche guidando. Delirio, stai guidando con la radio accesa. Dove sei, sto Mauro? Sto guidando, autostrada del Brennero. Dove stai andando? Al Brennero. Sto tornando a casa a Bergamo. Cosa fai nella vita? Sono un commerciale per un'azienda di coibentazione. Di? Coibentazione. Magnifico. Che certo. Cioè, la coibentazione è una di quelle parole che quando uno compra casa immediatamente o la cerca immediatamente, ma è ben coibentata. Mai usata quella parola lì prima e poi tutti sanno cos'è la coibentazione. Ma andiamo al dunque, cosa c'è da festeggiare, Mauro? Che sono diventato arbitro di pugilato. Oh, che uno... Finalmente, dopo 6 mesi di corso, esame scritto, orale, pratico. Cosa, che domande c'erano? Che domande ti hanno fatto per diventare arbitro di pugilato? Incontri vietati, diverse categorie di peso e poi tempistica, quanto pesano i guanti, cosa devi fare in caso di, non so, sangue dal naso, chi è l'autorità che può fermare un incontro. Mauro, scusami, ma cos'è che spinge un uomo di quanti anni? 28. Un uomo di 28 anni a diventare arbitro di pugilato? Guarda, ho sempre frequentato una palestra di pugilato, però ho preferito laurearmi piuttosto che fare il pugile dilettante. Quindi eri un pugile che semplicemente aveva voglia di continuare a rimanere sul ring? Esattamente questa. Beh, oddio, pugile è una grossa parola. Però, diciamo... Un amatore. Mauro, fai un buon viaggio e quando è che è il primo incontro? Spero appena notificano il tutto a Roma, al CONI di Roma... Penso un mese e mezzo, magari meno. In bocca al lupo, ciao Mauro, grazie. Ciao Matteo, ciao. Ma quanta cavolo di roba inutile hai comprato in questa esistenza? Sei un consumista o ci marci per continuare il programma? Fammi sapere, Michele. No, Michele, il programma comunque finisce venerdì. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. La bottiglia è sul sito, andate a vedervela e a comprarvela. Domani vendo un computer. Voi, invece, se avete dei desideri da realizzare, fatelo, che alla fine un desiderio è sempre un desiderio. Love, love, love, wherever you are.